Ma che è, oh? Oh, ricomincia. Come non si ricomincia? Ma che palle, non si ricomincia mai qua, oh. Vabbè, e andiamo, oh. Andiamo, na. E andiamo, na. Ok, sì. Ok, Non si ricomincia, non si ricomincia mai. È un eterno fluire di parole che ho da dire. Lo voglio fare, sì, voglio ricominciare, sì. Voglio ricominciare, rivivere tutto da zero. È solo un sogno e non è vero. Rifarei l'Odissea, ma non sono mero. Di rinascere io spero, sì. Mi ricordo di un passato, ma non dimenticato. Quando fuoco all'immondizia ho dato, con l'amico vero in un cimitero a teggare, finché non arrivano le guardie. Devastavo con gioia le cabine telefoniche, con pennarelli e martelli. Col cacciavite mi prendevo i soldi. Belli quei tempi, l'ho detto, ma sai io me ne fotto. Se una volta un tipo rotto lo specchietto dell'auto, no, non ci andavo cauto. Ma vedi, già dai tempi della scuola materna, ti basti pensare che andavo dalle suore. Se restavo 5 minuti di più aiuto. Ricordo che una volta ho bevuto un po' d'acqua per poi sputarla in bocca a un pinguino di nome Sor Gertrude. Eh sì, a quei tempi ero un po' rude, ma non so che darei per tornare bambino. Ci si illude che la vita è eterna, ma sai, si ferma, bisogna viverla in forma. Quindi ragazzi, non bruciatela con la droga. Eh no, non bruciatela. Oh, basta. Non si ricomincia, non si ricomincia mai. È un eterno fluire di parole che ho da dire. Lo voglio fare, sì, voglio ricominciare, sì. Voglio ricominciare, rivivere tutto da zero. È solo un sogno e non è vero. Rifarei l'Odissea, ma non sono mero. Di rinascere io spero, sì. Ricordo l'innocenza e la speranza. Ricordo che non c'avevo la panza nella mia stanza. Ascoltavo musica, poi con la benza davo fuoco alla credenza. Sì, smanie da piromane, ma da giovane andavo con una ninfomane. Fu lei che mi svezzò, quando fui io le dissi no. Dai, mettilo soltanto un po', va bene. Poi ci ho preso gusto e non so come. Ma 9 mesi dopo col panzone se la prese con me. Le dissi sai che c'è, di padri ce ne sono almeno 37. Parteggiavo tette alle feste, tutte le cose più belle ma anche le brutte. Un giorno ci ho preso un bel po' di botte, perché le tette l'ho toccata a chi non dovevo. Ma lo sentivo, non potevo evitare, perché ero vivo. Mo che scrivo non mi posso assolutamente lamentare. Ma ripensando meglio con il cuore, io risento in me l'ardore, sì, l'ardore di un giovincello che si vuole ancora divertire. Perciò voglio ricominciare, ma non si ricomincia, non si ricomincia mai. È un eterno fluire di parole che ho da dire. Lo voglio fare, sì, voglio ricominciare, sì. Voglio ricominciare, rivivere tutto da zero. È solo un sogno e non è vero. Rifarei l'Odissea, ma non sono mero. Di rinascere io spero, sì. Beh, forse esagerato, è come sempre. Forse non sono cresciuto, ma manco per niente. Sì, ma sai, l'importante è stare bene con la gente. Peccato che sei inconcludente. Ebbene sì, io sono inconcludente, deludente, sotto certi aspetti pure frustrante. Perché il prossimo lo illudo come fanno i bambini, ma solo per difesa dagli attacchi infami e dai vampiri. Di testa ancora 4 anni e di corpo ne ho 12. La crescita è solo fisica. Ricordo che alla modica età di 10 anni mi facevo la barba, adesso ne ho 21 e i miei coetanei mi guardano come strani. Potrei stare zitto ma non lo vorrei, e se ci sei dammi tu l'ok. Hey, voglio tornare bambino, non è che non lo sono già, ma si sa a una certa età, non regge il tram tram di gente come Bush e Saddam. Che tu sia cristiano dedito all'Islam non cambia affatto. Vorresti solo non capirci un cazzo di quello che i media ti dicono. Potrebbe cambiare, ma io non voglio aspettare. Io voglio ricominciare, ma è solo velletario il mio disio. Sì. In tutte le epoche sapevano tutti che non si ricomincia, non si ricomincia mai. È un eterno fluire di parole che ho da dire. Lo voglio fare, sì, voglio ricominciare, sì. Voglio ricominciare, rivivere tutto da zero. È solo un sogno e non è vero. Rifarei l'Odissea, ma non sono mero. Di rinascere io spero, sì. Non si ricomincia, non si ricomincia mai. È un eterno fluire di parole che ho da dire. Lo voglio fare, sì, voglio ricominciare, sì. Voglio ricominciare, rivivere tutto da zero. È solo un sogno e non è vero. Rifarei l'Odissea, ma non sono mero. Di rinascere io spero, sì. Si ricomincia, ricomincia mai. Fluire che ho da dire. Voglio ricominciare, sì. Sì, ti piacerebbe, eh? Agì. Mi fai proprio schifo, eh.